Allora è chiaro che tutto questo l'hai deciso tu. Ci scommetterei che non puoi capire niente poi. Per dirti che tu sei peggio di me, tu sei quella che negava.